Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che guarda il Salone Internazionale del Libro di Bologna per ragazzi, un salone che non solo è importantissimo per quello che si svolge all'interno degli stand con presentazioni, anteprime, dibattiti e quant'altro, ma perché intorno a questo si crea tutto un movimento di esposizioni, mostre, un'energia che parla sempre dell'illustrazione dei ragazzi. E quindi in questa nostra trasmissione guarderemo tre mostre, due in essere, una che sta per aprire la settimana prossima. La prima è Beauty in the World, il nuovo albo illustrato di divulgazione della No Fiction Picture Book, una mostra che sarà presente fino al 22 aprile nella piazza coperta della biblioteca della Sala Borsa. Poi avremo altre due mostre introdotte dalle interviste di Rachele Copparoni. La prima è Le cose preziose di Beatrice Alemagne, l'ultima invece è una mostra che prenderà il via il 7 di aprile ed è un'esposizione molto interessante, in particolare per chi ama i manga, i fumetti giapponesi, che attingono una grande tradizione di cose magiche, di mostri, e quindi Yukai, le antiche stampe giapponesi in mostra. Il nuovo albo illustrato di divulgazione, tante invenzioni che fanno dell'illustrazione un grande messaggio, ma per saperne di più sentiamo l'intervista di Morena Moretti a Ilaria Dindelli, che assieme a Giorgia Grilli hanno ideato e curato questa esposizione, dopo lo stacchetto musicale. Ilaria Dindelli, lei è tra le curatrici del progetto I nuovi albi illustrati per l'infanzia, da cui è nata anche una mostra che è in corso alla Sala Borsa. Ecco, può dirci qual è stato l'intento di questa ricerca? Diciamo che la mostra è uno degli esiti di un progetto di Ateneo che si è svolto a partire dal 2018. L'intento principale del progetto era proprio quello di mappare un vero e proprio fenomeno editoriale che si è andato dipanando in maniera massiccia, specialmente a partire dal secondo decennio, cioè degli albi illustrati di divulgazione scientifica. Il principale intento della ricerca era appunto quello di mappare un vero e proprio fenomeno editoriale, che è quello degli albi illustrati di divulgazione scientifica, che negli ultimi 10 anni, 15 anni, sono diventati proprio negli scaffali dei libri per bambini, e quindi volevamo proprio vedere come si delineavano e come fossero appunto un fenomeno internazionale, e andando a ricercare quelli che per originalità, per tematica, risultassero più interessanti, insomma. Le chiederei questo, intanto facciamo un passo indietro, cioè gli albi illustrati per bambini. Cosa sono? Innanzitutto la novità principale rispetto a questa nuova divulgazione è che si delineano nella forma dell'albo illustrato, cioè mentre prima la divulgazione scientifica aveva un intento prettamente formativo, informativo e didascalico, quindi, ed erano predominati dalla parte testuale, relegando l'illustrazione a funzioni di supporto, adesso prendono la forma dell'albo illustrato, quindi si sono originati dei libri in cui la parte visiva è preponderante e quindi si fa divulgazione, si fa non fiction sulla forma dell'albo, con libri cui anche soltanto il formato del libro, i materiali, l'impaginazione, la correlazione, l'intreccio, diciamo, tra testo e immagine contribuiscono a dare senso al contenuto. Quindi l'albo illustrato per bambini, diciamo, già esisteva, è stato utilizzato da tanto tempo, soprattutto nel mondo anglosassone, ed è dedicato proprio anche ai piccolissimi. Sì, esatto, sono libri che proprio perché così illustrati, in cui l'apparato visivo comunque suscita meraviglia e di grande impatto, noi diciamo che non crediamo molto nelle fasce d'età, sono libri da 0 a 100 anni, anche se magari la parte più testuale può risultare magari più ostica o può avere un lettore ideale più grande, sono libri che vanno bene per tutti. Certo, voi avete avuto un bel rapporto con la Fiera del Libro per ragazzi di quest'anno. Mi pare appunto che gran parte dei libri che avete poi esposto arrivino da questi editori, insomma, che poi erano anche in fiera. Sì, inizialmente abbiamo, tramite la Fiera del Libro, proprio fatto una call agli editori chiedendo di inviarci i loro migliori albi illustrati di divulgazione e poi siamo andati a ricercarli anche frequentando proprio la Fiera del Libro per Ragazzi annualmente e il Bologna Ragazzi Award, che è il premio insignito dalla Fiera, che proprio viene conferito al miglior albo illustrato in diverse categorie, quindi sono stati, sì, la Fiera sicuramente è stato un osservatorio privilegiato per la selezione. Questa mostra, insomma, che avevamo in corso in sala borsa e che voi avete organizzato per temi. Esatto, data la novità della non fiction in formato albo illustrato, che in qualche modo tenta sempre di travalicare le discipline standard, e volevamo creare delle sezioni più possibile trasversali, originali, interdisciplinari e flessibili. Tant'è che molti libri, magari a cavallo tra due sezioni, o possono benissimo confluire in un'altra, e volevamo appunto restituire quella che è la portata proprio dirompente di questa nuova non fiction, che in qualche modo mette in crisi quello che è l'idea di sapere come compartimentalizzato, e quindi abbiamo creato delle categorie appunto originali che in qualche modo servissero anche a chi poi questi libri li usa, li legge, certo, con i bambini, per poter suggerire anche dei percorsi tematici. Per esempio c'è la categoria tempo, la categoria che quindi riflette sulle varie accezioni del tempo. Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima, un passo dopo l'altro, la stessa vita, e gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale a ieri. Ilaria Dindelli, circuito molto ricco, appunto, fatto di queste categorie che si intrecciano, ed è anche molto fruibile per il pubblico, no? Perché è organizzato con la possibilità di toccare, sì, vedere, esatto, perché poi l'albo illustrato questo un po' pretende che ci sia un rapporto fisico. Volevamo appunto assolutamente che i libri fossero a portata di tutti e fosse agevole fogliarli, anche magari allontanandosi da quello che è lo scaffale dove sono riposti, potersi mettere, insomma, comodi e guardarli con tranquillità, e quindi sì, sono veramente accessibili e consultabili. Avete fatto addirittura una mappa per sì, questo percorso, e ci può può dire, diciamo, qualche categoria, qualche settore, oltre al tempo di cui prima ci parlava? Sì, c'è appunto un percorso ideale che parte dalla sezione Alice, che è quella forse più stravagante perché si ispira alla Alice di Lewis Carroll, in particolare un passaggio che c'è in Attraverso lo specchio, e che è quella un po' che racchiude anche l'essenza della mostra, riflette appunto sul limite delle categorizzazioni adulte e in qualche modo vuole suggerire come il mondo sia più complesso delle categorie nelle quali lo pensiamo o lo studiamo. Quindi da lì diciamo che si originano due percorsi, uno che passando da categorie come inventari, per cui libri che hanno l'intento di inventariare tutto ciò che riguarda un argomento, quindi un tema specifico, o anche in generale il mondo tutto, passando appunto per linguaggi, una categoria chiamata sensi, o fino appunto all'idea del numero, della misura, e quindi si va da Alice fino a una categoria che tenta in qualche modo di numerare, di racchiudere il più esattamente possibile, il più scientificamente possibile, mentre l'altra direzione, che parte sempre da Alice, sfocia nella categoria che è visibile e invisibile, nella quale, nella nostra ideale organizzazione dei libri, si conclude con i libri dedicati alle domande sul mondo, sull'universo. Ci sono libri sulle religioni, sul mistero della nascita del corpo umano, e altre categorie intermedie sono movimento, per esempio, racchiude libri che in qualche modo riflettono sulla spinta umana universale a rimuoversi, e quindi tutti i libri sulle migrazioni umane e animali, sui mezzi di trasporto, su strade, eccetera. Quindi questi albi illustrati sono assolutamente utili per la didattica, e penso che forse in questi anni siano stati anche usati. Quanto sono, secondo voi, se avete un osservatorio in questo senso, quanto sono entrati nel sistema scolastico gli albi illustrati? La mostra voleva proprio sensibilizzare anche gli insegnanti, proprio fa didattica, ma anche percorsi bibliotecari, o ad usarli proprio al posto dei libri di testo tradizionali, farli entrare nelle esperienze di lettura e di scoperta. Forse nelle scuole primarie è più sdoganato l'utilizzo degli albi di divulgazione, magari è meno frequente nelle scuole dell'infanzia, o ancor meno nei nidi d'infanzia, quando in realtà, appunto, io per esperienza personale, sono veramente libri che funzionano con tutti, magari rinunciando alla lettura integrale, però sono esperienze fondamentali per piccoli lettori. Quando ero piccola dormivo sempre al lume di una lampada per la paura della solitudine, paura che non m'ha lasciato mai, nemmeno adesso che sei qui e dormi accanto a me. Ma sento che i tuoi sogni si allontanano, perché per quelli che si amano in due. Una donna è più sola quando l'uomo che ha vicino non riesce a leggere nei suoi pensieri. Quando ero dormivo sempre al lume di una lampada per non restare sola. No. dalla Sala Borsa, spostiamoci in via delle Donzelle 2, dove appunto è in essere questa mostra Le cose preziose di Beatrice Alemagna, presenti fino al 26 aprile. Una mostra dunque dedicata a un'attrice ben conosciuta, Beatrice Alemagna, che forse è la più grande creativa italiana contemporanea di Picture Book. Presenti oltre 200 delle sue opere con disegni, schizzi, oggetti, ricerche e quaderni. Comunque, a partire dal titolo, il punto focale dell'intera mostra è quello della ricerca. Questo diventa visibile attraverso esposizione di bellissimi materiali e diversi inediti. Rachele Copparone ha interpellato la stessa Beatrice Alemagna e poi Emilio Varrà, il coordinatore di questa mostra. Do il buongiorno a Beatrice Alemagna, protagonista assoluta di questa mostra Palazzo Paltroni. Buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto volevo chiederti, Beatrice, com'è stato tornare a Bologna con una mostra, insomma, tutta tua? Molto emozionante. Questa è la mia seconda mostra bolognese. La prima ha avuto luogo nel 2005 al Palazzo dell'Archiginnasio, quindi un secondo luogo come questo della Fondazione del Mondo. E avere una sede così prestigiosa aperto il mio lavoro è una grande emozione. Cosa presenta la mostra? Insomma, un po' si può dire che è un po' una sorta di viaggio all'interno della tua ricerca ostinata, come citando anche il titolo. Sì, allora la mostra presenta disegni, schizzi, oggetti, ricerche, quaderni, più o meno dei miei ultimi 10 anni di lavoro, perché io faccio questo lavoro da circa 25 anni, ho iniziato parecchio giovane e quindi diciamo dal 2013 al 2023 quello che ho esposto appunto riguarda questi anni in particolare, ed è suddivisa con 3 tematiche, appunto gli interni e gli esterni, intesi come spazio dei posti all'interno, dei posti all'esterno, i personaggi, la narrazione e un'ultima parte con delle pitture ad olio per Addio Biancaneve, che è stato uno dei miei ultimi libri, e alcune ricerche visive sui miei maestri pittorici. Grazie mille, Beatrice. Grazie a voi. Dopo Beatrice Alemagna, anche Emilio Varrà, curatore della mostra, insomma, di Amelin. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, parlavo anche con Beatrice degli spazi espositivi di questa mostra, sono un po' divisi in 3 tematiche, ce le puoi raccontare, Emilio? Sì, gli spazi della Fondazione del Monte di Bologna Ravenna, che ringrazio, approfitto, sono stati perfetti questa volta, perché lavorando un giorno intero con Beatrice Alemagna, quando siamo andati a trovarla a Fontainebleau, dove abita, abbiamo visto tanti lavori, tante opere e chiacchierato tutta una giornata, e pian piano sono venute fuori delle parole chiave da queste chiacchiere, ovvero quella degli spazi, quello del rapporto tra l'infanzia e il racconto, quindi come raccontare anche l'infanzia, e quello delle cose, degli oggetti, delle piccole cose che poi sono anche le cose preziose che abbiamo messo nel titolo della mostra, e quindi sono proprio venute naturali, ed essendo la fondazione e lo spazio espositivo costruito proprio su 3 spazi, abbiamo immediatamente pensato di distribuirla in questo modo. E poi abbiamo dedicato invece 2 momenti speciali a 2 delle opere ultime di Beatrice, che sono Addio Biancaneve e Al Parco, dando a loro uno spazio appunto tutto loro, perché invece negli altri pareti le opere dei vari libri sono mescolate secondo una logica che spero poi diventerà anche curiosità di chi la viene a vedere. Giustamente. E invece qua tra le mie mani questo catalogo meraviglioso, che più che un catalogo alla fine si è trasformato in un libro, insomma, di illustrazioni. Sì, e anche questo era un po' il desiderio di fare un lavoro che è stato pubblicato da Topi Pittori, si chiama Alfabeto Alemagna, che fosse chiaramente legato all'occasione della mostra, ma che avesse anche poi una vita autonoma. E quindi, come dici tu, è un saggio monografico fatto ad alfabeto, non con tutte le lettere, ma insomma con delle parole chiave che inaugurano una lettera, attraverso che ogni volta una lente per attraversare il lavoro di Beatrice, che ci ha messo a disposizione anche tantissime immagini inediti, di schizzi, taccuini, bozzetti, prove, lavoro sui personaggi, e quindi è anche un serbatoio di immagini che non si trovano nei libri pubblicati. Grazie mille. Grazie a voi, vi aspettiamo. Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padre mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, sempre in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna, sono già 1003, 1003, 1003. E va tra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, i bandogli, dogli grano, dogli forma, dogli età, dogli forma, dogli età. In Italia 640, in Lavagna 231, cento in Francia, in Turchia, nuvantuna, ma in Spagna, ma in Spagna, costa 1003, 1003, 1003. Gli attuali manga, i fumetti giapponesi protagonisti dagli anni 80 in poi anche in Italia, hanno in qualche modo radici nell'iconografia giapponese, in particolare quella che si confronta con i mostri. E allora questo ci porta a yokai, le antiche stampe dei mostri giapponesi, ideate e prodotte da Vertigo Syndrome, a cura di Paolo Linetti, che presenta questa mostra al pubblico occidentale come un viaggio fantastico e immersivo attraverso più di 200 opere di artisti giapponesi dal XVIII fino al XIX secolo, con storie, leggende e che, unendo mito, brivido e mistero, ha dato origine a manga, eroi e mostri del sollevante. Prima a Monza, mostra con molte successe, poi a Bologna. Sentiamo allora Paolo Linetti che parla appunto di questi mostri giapponesi della tradizione nipponica. Ad aprile a Palazzo Pallavicini arriverà la mostra Yokai, le antiche stampe di mostri giapponesi, e io sono qui per parlarne con il curatore Paolo Linetti. Buongiorno Paolo e benvenuto su Radio Città Fujiko. Buongiorno a tutti. Dopo il grande successo a Monza arriva anche a Bologna questa mostra dedicata alle stampe giapponesi. Che cosa verrà presentato Paolo al pubblico appunto all'interno di questa mostra a Palazzo Pallavicini? Sarà una cosa nel mondo dei mostri giapponesi, che sono dei mostri molto diversi rispetto ai nostri per criteri e per caratteristica, e nel percorso che noi faremo quindi andremo a conoscerli, ma con un'attenzione particolare proprio per evitare quelle credenze e quelle confusioni che si stanno creando proprio nell'ultimo decennio. So che ci saranno anche delle particolarità per questa tappa bolognese, ecco. E ci saranno delle nuove stampe, per cui anche chi ha visto la mostra Monza vedrà delle cose nuove e delle soluzioni allestitive nuove, quindi è la mostra di Monza, ma nello stesso tempo è anche diversa. Tra l'altro c'è anche in atto una scontistica speciale, particolare per chi acquista il biglietto in questo periodo. È stata una formula che è stata fatta dalla produzione Vertigo Syndrome per incentivare da subito il fatto di scoprirla e quindi velocizzare appunto la conoscenza della mostra sul territorio bolognese. Perché infatti arriverete ad aprile, quindi insomma tra qualche mese, per cui insomma poi magari ne riparleremo. So che farete anche una conferenza stampa appunto qui a Bologna di presentazione, ma intanto ci può anticipare qualche nome insomma di artisti che saranno presenti all'interno della mostra? Hokusai, l'inventore della grande onda, con delle opere inedite, fra cui c'è il suo libro illustrato in assoluto più bello, che è sui combattenti cinesi e giapponesi. Ci sono delle opere straordinarie di Kuniyoshi, e dico straordinarie perché hanno una conservazione perfetta, per cui li possiamo ammirare con con gli stessi colori con cui le ammiravano al tempo, quando le stampe giapponesi facilmente si scoloriscono. Abbiamo poi fra i grandi nomi Hiroshige e Chikanobu Yoshu, e poi ci sono, non è una stampa di sole mostre, quindi tra le cose più interessanti ci sono delle armature giapponesi, ci sono delle armi, un ventaglio di guerra di un generale con cui a seconda del movimento decideva le sorti della battaglia, e anche un abito rituale di samurai. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafujiko.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.